Berarti usume wong loro pikir. Usume wong loro. Oh, nek videone nek aku bareng kuwi lho. Yo, yo. Halo, Bro. Yo. Dadi loro pikir dadi bingung. Dong sing di ninggal rasa nong jero dodo. Ada di Anggun. Ada kakak Rido. Terima kasih.